coisa longe, tudo perto, hasta ser capaz do ponte. Pinta a borda, choque, em cavalo de pau, enfim, não campina. Curva longa, rua nua, lua verde. Yeah, Joe, toca mais. Rapão de meus abiscos, dos impróprios discos. Anda solta, marcha, puxa, corre, vamos. Carro vindo, cola tudo. Estrada fora, gritos paralisam, choques de para-choque. Vamos juntos, para longe, para perto. Para nunca, para parar, gamão. Freio de mão, procissão, encontra mão. Yahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah